sogno senza dormire, lo sguardo perso tra le stelle di chi vuole capire dov'è che siamo adesso e dove andremo a finire, se siamo già arrivati o se dobbiamo partire. E l'ho capito da un po' che qua gli errori li paghi, spuntano dal nulla come fossero maghi. Il tempo resta sempre il principale avversario. E l'ho capito da un po' che qua va tutto al contrario. Devi non dormire per poter sognare, devi spegnere il cuore per poter amare. Devi dare poco per farti apprezzare, devi dire poco per farti ascoltare. Oggi alle valigie in mano devo solo trovare qualcuno come me che sia pronto a scappare. Questa vita è una condanna, un'eterna salita, e la musica resta la mia via d'uscita. E cercherò di capire quello che il mondo non dice, magari sopra la luna, cercando un po' di fortuna. E cercherò di intuire quello che nessuno scrive, l'amore in ogni persona e solo Dio non perdona. Cammino lento, più mi sento da solo in questo mondo che sembra girare sempre al contrario, questo mondo che non ha capito quello che sono, dove non distingui più un animale da un uomo e dovrei stare fermo ad aspettare la fine, mentre quello che passa è un normale avvenire, tanto quello che resta è destinato a svanire. E alla fine dei conti a cosa conta tornare? Ma ancora quella forza che mi spinge ad andare, cerco solo un nuovo punto verso il quale guardare. E via da questo mondo, adesso voglio viaggiare. Preparo le valigie, sono pronto a partire. E cercherò di capire quello che il mondo non dice, magari sopra la luna, cercando un po' di fortuna. E cercherò di intuire quello che nessuno scrive, l'amore in ogni persona e solo Dio non perdona. Dio non perdona sopra la luna, Dio non perdona sopra la luna.